momento nel quale riesco ad essere violento. Un testo come questo, in quasi tutto il resto del tempo mantengo le catene morali dell'epoca che sto vivendo. Qui chiedo che a domestica intendo che le bestie diventano impiegati, piegati. Mi cerco nell'estasi in cui entro quando esco dal centro. In can, bagna un can, ragna meglio che la gran lagna della viziata che non si zuppa solo il pan. Bagna, perdo ogni centro di gravità permanente, cambiando idea sulle cose e sulla gente. Anche se l'idea che per me come ogni cosa si rivela in modo differente, trovo la solitudine incosciente in piccole pause, altro che pausini. E supero la noia quando l'assurdo rigenera i miei fini. Ma come ogni libertà è fatto potenziato, altro che caso, caso mai. Il fatto che non agisce a caso mai, buongiorno, si vede dal pigiamino. Ogni gioco illogico, un denudamento psicologico. Ma non mi denudo per questo, anzi l'opposto, denudandomi cogito. Ero a dialogare col benzinaio che non mi dava abbastanza benzina per mettere in moto il pensiero, come l'hanno spento dal siero dello sfogo digitale. Non mi drogo con messe su messenger, c'è un modo più normale per comunicare tra download come equazione ripetere. Ciò che mi salva non è possedere tanta musica, ma esserne posseduto al di là della quantità. Ho voglia di una pompa magna.